quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. 24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Attaccare! Ma devi gridarlo forte. Attaccare! Più forte. Più forte, perché è nello stadio. Attaccare! Ma dai, state a vedere. Attaccare! Roma nuda. Scusa se perdo lacrime per strada. Ma che vada. Fa finta che so gocce derugiada. Matteo a volte ha usato, non so se lui personalmente o altri, l'epiteto di sindaco d'Italia. Se Matteo come primo ministro è il sindaco d'Italia, io sono il sindaco della capitale. Cammino a piedi scarsi, almeno finché tarsi. Come sentirai? Davvero, non vivo assolutamente questa rappresentazione mediatica di un conflitto con Matteo Renzi. Io non penso sinceramente che ci sia nessun conflitto. Perdo lacrime per strada, ma che vada. Fa finta che so gocce derugiada. Tira dritto Marino, ignaro Marino. Entro a letto, ma chi gli frega? Vado randaggio in qualche vicoletto. Sembra un po' ormai una telenovela, eh? Cammino a piedi scarsi, almeno finché tarsi. Che manco me sentirai. Boh, adesso decidano, facciano qualcosa. Decidano, non lo so, perché adesso ci stiamo anche stancando, Non so disperato. Casa vuota. Ebbene sì, attaccare, dice Silvio Berlusconi in maniera un po' urlata, in maniera grintosa, però adesso... Attaccare! Ecco. Però adesso dovrà staccare un assegno. Un assegnino. L'assegnetto. Roma. 1.400.000 euro cada mese per Veronica Lario. Così si è chiusa la vicenda. 1,4 milioni di euro al mese tassabili, però ci paga le tasse la sciura Veronica, ci paga le sue belle tasse, 1,4 milioni di euro al mese. La sciura Veronica però ne aveva chiesti 3,6. Poveretta, si è dovuta accontentare. 1.400.000 euro al mese finché morte non li separi. Berlusconi alla sciura Veronica Lario, non male, Tu Peter Vescavè cosa faresti con 1,4 milioni tassati al mese? Tu Lorenzo Nespoli che ci faresti con 1,4 milioni di euro al mese? E sono quelle notizie che sicuramente alle 6:32 minuti vi terranno compagnia, così vi si infileranno tra il cuscino e la guancia e vi sussurreranno nell'orecchio: minchia! Almeno finché tarsi, dormi e vedrai che manco me sentirai. 1,4 milioni di euro al mese. Roma nuda. Questo è ciò che Silvio Berlusconi dovrà pagare per mantenere il tenore di vita della sciura Veronica Lario per il resto dei suoi giorni. Altro che attaccare qui. Allora, sono le 6:32 minuti e questo è 24 mattino. C'è Lorenzo Nespoli, come detto lì, insieme all'alpino Peter Pescapè. Voglio subito convocare la nostra mitica Paoletta, capire con uno... Dal 2015. Sì, vabbè. Viva le rosse turna, ma buongiorno. Viva la Paola. Oh. Paola Saluzzi e Paola Saluzzi. Special guest. Paola Saluzzi. E altri quei tizi di cui non ce ne frega che, assolutamente. Che ne faresti nulla. Tu con uno, Paolina, 1,4 milioni di euro al mese? Dai, rompiamola la spesa. La spesa. La spesuccia da Tiffany. Così la spesuccia da Tiffany. La colazione da Tiffany. Eh certo. Veramente, ma insomma, poi bisogna capire. Tassati, no, non so, sì, certo, sì. Quindi te ne rimarranno, non so, magari 900.000 euro. Ecco. Sì, sì. Insomma, si vive. Si vivacchia, si può vivacchiare. Si può vivacchiare. Come diceva Totò nei soliti giochi, maresciallo si lavicchia. Vabbè. Quando li scoprono sul piano, all'ultimo piano. E sì, penso che insomma fosse tutto nei conti e così nel conto di questa possibile separazione. È un assegnino, l'assegnino. Va bene. Oggi vi dovrò far sentire a te e al nostro direttore Luca. Mercoledì diventa il mercoledì del direttore, un programma di approfondimento di Luca Dini con l'insolita presenza di Paola Saluzzi e un altro tizio di cui non ce ne frega assolutamente nulla. Ma questo è un genio. Sì, sì, sì. Se lo volete a Sky per fare delle sigle. Ah, è meraviglioso. Luca Dini, ben svegliato. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Tu che faresti, direttore, dovendo pagare 1,4 milioni al mese? Ecco, dovendo pagare. Ti metto dalla parte del maschio a questo punto, dalla parte di Berlusconi. Staccare invece che attaccare. Staccare gli assegni, staccare. Sì, 1.400.000 euro se è chiusa questa vicenda. Oggi vi dovrò far sentire una cosa che vi farà mandare in bestia, vi rovinerà la mattinata, soprattutto a Paola Saluzzi, ma secondo me anche a Luca Dini, e quindi voglio farlo con un ingresso più soft, non ve la voglio far sentire subito, vabbè, ma c'è tempo, ve la farò sentire. Prima apriamo il Parlamento, dai, apriamo il Parlamento che... qua c'è da provare. È ora, adesso è ora. Vado a prendere un caffè, quindi semmai ci vediamo più tardi. Grazie al ministro Boschi. A più tardi. Allora, cara Paoletta, tu che vivi a Roma, tu che vivi a Roma. Come lo vedi, Ignaro Marino? Ma come diceva il nostro Lorenzo Nespoli, chiamato stamattina con la grazia di sempre, dico: Roma è ancora in piedi. Ah, bene, è una buona notizia. Ufficiale. Ecco, esatto. E beh, che dovranno prendere una decisione, qualcuno dovrà prendere una decisione a breve, anche per evitare che sia non sarebbe qualcosa più. Diventi troppo personalistica la situazione. Sì. Anche perché una cosa che è giusto che si sappia, ma credo la sappiano tutti, non è che sindaco via, nuovo sindaco, cioè se serve anche tempo per fare un conclave, della serie sempre a Roma, morto un papa se ne fa un altro, anche lì è tutto da vedere, sì. Ma serve tempo, insomma, nel caso. Sì, io è da giorni che dico che non l'ho capita questa cosa per cui il posto del sindaco sarebbe a disposizione di Matteo Renzi, che dice non mi piace più. Questo è un po' in sintesi, e non mi piace più. Che voglio dire, spero che valga per tutti i sindaci d'Italia. Che ne so, Pisa Pia, Milano, a metà mandato, beh, ormai il mandato è finito, non ci piace più, via. Qui è un po' più grave, credo, che non ci piaccia più, ecco. Qui sì, c'è qualcosa certo, in più, no, di mezzo. Ovviamente chiaro, deve essere chiaro. Così, mancherebbe altro. Però è una situazione grave, insomma, grave. Abbastanza grave. Il malato è grave. Il malato è grave, ma in piedi. Il malato è grave, ma in piedi, anche stamattina. Cioè Roma si è svegliato. Non sappiamo se è puntellato, ma insomma, siamo qua. Vabbè, giustamente, non so, lo chiedo a Luca Dini, che tu hai uno sguardo da Milano, però intanto c'è giustamente un ascoltatore che mi scrive subito un mezzo dramma su questa questione con cui abbiamo aperto dell'assegno. Non è che così non ci compra più Ibrahimovic adesso? Ecco, esatto. Cioè non ci compra più. No, effettivamente non l'avevo letta così, caro ascoltatore, ma adesso mi hai creato un po' una turba psicologica. Può chiedere eventualmente di far diventare socia la signora. Facciamo giocare Veronica. Facciamo una cosa, però investiamo denaro comprando Ibrahimovic. Ah, Non facciamo giocare la Sciura Veronica in attacco, no? Perché mi sai... magari lei compra qualcuno per l'Inter, lei. Esatto. No, compra. No, com'è? No. Questa sarebbe, non sarebbe male. Veronica Lario che compra un giocatore, strappa Ibrahimovic per l'Inter. Vabbè, insomma, è una lettura. Una lettura. Non voglio immaginarlo. Comunque, caro Luca Dini, che ne vedi? Che ne pensi di Ignavo o Ignaro Marino, come è soprannominato, che va avanti come se nulla fosse? Come dici tu, cioè, non è che quel posto lì sia a disposizione del partito che ha candidato esattamente. Comunque è stato votato questo signore. Appunto. È stato eletto, non è lì per mandato così. È lì perché è stato eletto. È stato eletto, no, ma infatti chi l'ha preceduto ha finito il suo mandato. Non esattamente facendo cose migliori o anzi, quindi voglio dire, non so, è una situazione un po' strana, però effettivamente se diceva avanti, forse ha i suoi motivi, sì, la poi, sua legittimità poi, per dire vado avanti. Poi continuano a dire, se anche oggi Orfini fa un'intervista a Repubblica e dice se la sente di continuare, ma l'ha detto in mille salse che se la sente. No, il problema è come, cioè, sì, nel senso, esatto. Cosa dire, se tu continui ad avere, se gli assessori se ne vanno, se c'è una turbolenza interna così forte, allora il problema è di carattere politico, non è sicuramente sulla persona che non è indagata, sulla persona che non è inserita all'interno di questo orrore nel quale Roma è caduta, non ci sono dubbi. Sì, sì. Però bisogna capire se come va politicamente avanti. Come possa andare avanti. Il gruppo come possa andare avanti. Cioè, se è un gruppo, il sindaco non è un proprio di squadra di calcio, non gioca da solo. Insomma. No, ma non questo è una partita no, tennis. No. Però appunto il dubbio forte è che alla fine si decide di sacrificare lui tenendo in piedi tutto il resto, che invece è quello che veramente marcia, e tutto il resto. Vabbè, c'è chi mi scrive Marino Vinavil, te ne devi andare, e vabbè, in realtà chi ci metto al posto suo poi? Si fanno le elezioni, si fa un commissario e poi si va a votare. Sì, certo, però viene fuori sempre di più che il problema a Roma non è. Allora, intanto qui la cifra è quella che colpisce, gli italiani sono rimasti attaccati a questo 1.400.000 euro, ci scrive un ascoltatore, che mensile, lo ricordiamo, mensile fino a che morte non li separi, forse in un anno ce la facciamo. Neanche Ibrahimovic ha mai strappato un contratto così, neanche un vitalizio alla Camera ti dà una lotteria vinta così. Comunque, però gliene rimangono 900 sì, effettivamente c'è chi mi scrive la tassazione al 50%, quindi ne avrà 700.000 euro al mese. Beh, 700 cominciano a essere un po' pochini, risica di qui, togli di là, paga le tasse, 700.000 euro netto al mese, più le case ovviamente. Matteo da Brescia ci scrive: in tutta la mia vita lavorativa da operaio prenderò circa 800.000 euro in tutta la mia vita. Caro Matteo, non ti chiami Sciura Veronica e non hai sposato Berlusconi, non so, quindi che dobbiamo fare? Però se siete adesso ben pronti, io vi farei arrabbiare un pochettino. Dai, allora, forza. Allora, c'è stato il Family Day. No, vabbè, ti sei già arrabbiato così, aspetta ad arrabbiarti bene, Luca Dini, no. C'è stato il Family Day, tra l'altro noi oggi avremo ospite alle 8.15 Massimo Gandolfini, che è il portavoce, insieme alla senatrice Cirinna, che è quella, la relatrice del disegno di legge sui matrimoni dello stesso sesso, e faremo un confronto civile pacato. Allora, conoscete per caso il signor Kiko Argheglio spagnolo? Kiko Argheglio, tu l'hai mai sentito nominare? Paola Saluzzi? No, ma no. Lo conoscerei volentieri perché sai cosa ha detto? Ma così orecchiavo. Tu, Luca orecchiavo. Dini, conosci il signor Kiko Argheglio? Non lo so. Comunque è padre del cammino neocatecumenale, che ha preso anche lui la parola tra tante persone al Family Day, e ha dato una sua lettura sul femminicidio. Sentite un po'. Ma se la moglie lo abbandona e si va con un'altra donna, questo uomo può fare una scoperta inimmaginabile. Quella moglie l'ha tolto l'essere, il non essere amato. Questo si chiama l'inferno. È il primo moto che sente dentro, perché sente una morte tan profonda, che sente la morte dal profonda, che vuole fare cosa? Sentite, Argheio. Non essere amato, ha piombato in un buco nero eterno. Allora pensa, come posso far capire a mia moglie il danno che mi ha fatto? Ucciderò i bambini. Ucciderò i bambini. No, cioè, ma voglio dire, no, poi nel pezzo prima, se è perso un pezzo, dice il primo istinto di un uomo lasciato che cade nella profondità dell'idea della morte è uccidere la donna. Questo è l'istinto, perché l'inferno esiste, no? E quindi l'uomo questa è una buona notizia. Perché dice? Che l'inferno esista, così ci va. È un punto di riferimento. Cioè, questo ha detto questo in piazza davanti alle persone. Per carità, non è che vogliamo identificare. Io fossi in loro, mi farei qualche domanda. Ma questo è il signor Chico Argheio. Il femminicidio in pratica è colpa delle mogli, perché lasciano il marito e quindi porta un istinto omicida del marito che piomba in questo inferno. Paola Saluzzi, lo so che io sono scandalizzata e non ho sentito i bu della piazza, non hanno cominciato il lancio di oggetti. Quantomeno, quando mai, figura. No, capisci? Adesso, una cosa, questo signore non probabilmente voleva estendere il suo ragionamento ben oltre le cose dalle quali era partito e forse non ha avuto tempo di terminare la sua teoria, sulla quale io sposo la tesi che ho sentito ieri sera tornando a casa alla Zanzara con Giuseppe Cruciani. La gente sta male, insomma, nel senso, non è un ragionamento lucido questo, io non credo che sia un ragionamento il dramma logico. Il dramma che era lucidissimo, mi sembrava, sei riuscito a farci arrabbiare, Alessandro. Sono riuscito a farti arrabbiare, purtroppo non mi arrabbio, da quella gente lì non mi aspetto nient'altro. Non ti aspetti niente, e da quella platea. Addirittura, cioè da tutti Come dici tu, nessuno ha fatto bu, ma nessuno fa bu. Sì, effettivamente non mi sembra che sia stata una presa di distanza. Peraltro, in altri tempi erano quelli che bruciavano le streghe, erano le stesse persone. Che bruciavano le streghe. Cioè, sì. Effettivamente un po' di radicalismo c'è, però adesso mi hai messo nelle buone condizioni con Massimo Gandolfini, quando le parlerò alle 8:15, gli chiederò se lui brucierebbe una strega, che dobbiamo fare. Però certo, questa polemica è sopita per 2 giorni, cioè nessuno ne ha parlato. Poi è uscito fuori questo video e questo audio, no? Non si vuole identificare con Chico Argheio quello che è scandaloso, come dici tu, è che nessuno ne ha parlato e nessuno si stupisce di questa cosa qui. Sì, adesso è esattamente quello che ti si aspetta da quella platea e da tutto. Io ribadisco, però mi chiedo scusa, se è arrivato fino al discorso ti uccido i figli, probabilmente il suo era un ragionamento molto più ampio, no? Perché certo, questa gente arriva alla pazzia di uccidere i figli anche per punire chi? La donna, sì. La quale rea di essersi allontanata. No, ma guarda che dice anche il primo istinto, perché adesso non è che vi voglio fare arrabbiare, ma siccome si è perso il pezzo finale, risentitelo, perché dice anche di uccidere l'istinto prima di uccidere la moglie, sentite. Ma se la moglie lo abbandona e si va con un'altra donna, questo uomo può fare una scoperta inimmaginabile. Quella moglie l'ha tolto l'essere, il non essere amato. Questo si chiama l'inferno. È il primo moto che sente dentro, perché sente una morte tan profonda, che il primo moto è ucciderla. Il primo moto è ucciderla, ma di chi? No, signor Argheio! Che fosse alto gradimento, avessimo preso uno spezzone di arbore di alto gradimento anni 70. È successo, Roma, sabato scorso, Piazza San Giovanni. Se vogliamo parlare di primi istinti, allora se parliamo di istinti, non lo so, ma il problema è, si sente tolto l'amore? No, questo è camminare sui cocci rotti e pensando di non farsi male ai piedi. Non si fa, ecco, non si deve neanche pensare a una cosa del no, genere. No, ma infatti il primo istinto è uccidere, mamma mia, vabbè. Poi dai. Il secondo è uccidere i figli. Allora probabilmente questo signore voleva analizzare la cosa da un punto di vista come tragedia vista dall'alto. È riuscita malissimo, come analisi gli è uscita veramente malissimo. Andiamo al traffico, va, vi ho fatto arrabbiare abbastanza, dai. Brum brum brum, c'è il traffico Milan. 24 mattino. Ma Milan, ma come faccio a calmarmi? Che tutte le mattine ti sento e altro che le mani sul volante. Tu devi dare solo notizie belle, notizie buone, tutti i pensionati sono contenti, arriveranno soldi dallo Stato. Milan, qualche giorno mi puoi fare un incidente. Sto scherzando, sei un grande. Saluti. Di Alessandro, buongiorno. Hai visto? 7.000 appartamenti a 7,65 euro. Questo ti fa capire com'è che vanno poi le elezioni nel paese, che vincono i soliti noti. Alla media di 4 a famiglia, 7x4, 28. 28/30.000 voti e partono già con questo vantaggio qui. Dimmi te come si fa andare avanti. Usina che Roma la dovrebbe nominare il Papa. A Roma è proprio un disastro. Mannaggia, mani sul volante, mani sul volante. Voglio la Padania libera dall'Europa, solo per il gusto di chiamarli extracomunitari. Marino, è finito. Non è finito Marino, è finita l'Italia. Che tragedie, mamma mia, mamma mia. Paola Saluzzi, ottimismo. Il sindaco lo deve nominare il Papa. Sì, ieri abbiamo parlato delle case a Roma, molte delle quali date in affitto a 7,75 euro, il prezzo di una pizza margherita. Lo sapevi, Paola Saluzzi? Lo scriveva anche il Corriere domenica. Ma arrotondiamo a 7,50. Dai, 25 non li facciamo. Sconticino, pagare, dai, sconticino. 7,50 d'affitto. Non so, magari un monolocale in Piazza di Spagna. No, ma anche con un... Diciamo che la signora Lario a Roma. La signora Lario cosa fa a Roma? Se compra a Roma. Diciamo se la può rifare una vita, dai. Sì, dai, sì, effettivamente. Si compra, si affitta 7.000 case e gli rimangono fuori un 400.000 euro così al mese. Così, faccio colazione in una casa, pranzo nell'altra e via. E poi gli rimangono 400.000 euro. Allora, a proposito di quello che vi ho fatto sentire, che mi ha fatto arrabbiare, io mi voglio allacciare perché ho letto questo straordinario reportage su Vanity Fair che ho qui di questa ragazza. Ti ricordi, Paola, anche tu ne avevi parlato, questa ragazza turca sì, credo che è stata uccisa, sì, perché è andata a cantare in un talent, no? Voi che avete fatto, Luca? Siete andati a raccontare la tragedia, no? Sì, siamo andati a trovarla assolutamente. Succede quando le persone hanno la testa di quello di chi ha parlato a Roma. Considerano le donne come una proprietà o delle specie di mucche da riproduzione, punto e basta. Cioè, se è esibita in un talent, il fidanzato le ha sparato perché ha detto: se vai in sì, TV ti ammazzo. Sì. Come sta? Sta uscendo dal coma, avrà davanti una riabilitazione bellissima. Magari non canterà più, e quindi il suo fidanzato sarà contento. Ha ottenuto drammaticamente lo scopo, no? che ha messo in pratica questa terribile vendetta. No, è uno dei servizi che insomma su Vanity Fair ho visto. Ti aveva colpito questa storia, Paola? Ricordo. No, ma questa storia è ovviamente sarà tutta da leggere, da studiare. Più che altro, ecco, soprattutto l'importanza del ricordare quello che si è appena successo, perché come sempre entra in quella velocità con la quale noi leggiamo le notizie, parliamo delle cose e poi puntualmente si corre e quindi certe notizie rimangono indietro, come dire, sì, no? Sì, è chiaro. Non hanno, ecco, sì, colpiscono per il concetto del promemoria e per bastare. Colpiscono per un giorno o due e poi... Ma se noi dovessimo pensare chi sia stata l'ultima donna uccisa nel nostro paese perché il marito non ne tollerava, era caduto nell'inferno dell'abbandono. Nell'inferno dell'abbandono non sapremmo dirlo. Il signor Chico Gheio lo saprà. Sicuramente lui tiene il conto. Uno che si è sparato, ha ucciso la moglie e poi si è sparato davanti alla figlia di 14 anni, un altro che l'ha pugnalata

burloni per dire come il controllo a volte non sia facile. Il miglior ristorante è quello che non esiste sul Libero. Mentre eccoci qua, alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, la polemica che c'è ogni anno, come quella dei compiti dei bambini a scuola, no, come era, non fate compiti, fate capriole, correte per i parchi, eccetera. Ecco, questa è l'altra polemica. A giugno la TV va in vacanza, i talk show chiudono, ed eccola qui, in prima pagina del Fatto, noi nel purgatorio della TV estate, poi un'intera pagina sul Fatto Quotidiano, su coppie che si separano perché non c'è più Ballarò, non sanno più che cosa dirsi quando si guardano in faccia. La TV che in estate ci manda te che te che te che te. Ma dai! Ma chi se ne frega! Il segnale orario vi è offerto da... Proteggi la tua casa. Index isola, impermeabilizza e risana in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Ladies and gentlemen, and now, Alessandro Milan. Che devozzi via fuoco. Milan, il cagnas randaggio dell'informazione. Se fossi tua moglie, quante botte ti darei? Quando parli, sembri laureato in tuttologia, sai tutto tu. Sono le 8:19 minuti e ben ritrovati da Alessandro Milan, cari ascoltatori. C'è il numero verde se volete intervenire in diretta, 800 24 00 24. Allora, sembra tra gli intenti di Renzi e della maggioranza che ci sia anche quello di accelerare sul disegno di legge sulle unioni civili. È quel disegno di legge che, se approvato, consentirà a due persone anche dello stesso sesso, questo è il punto più importante in discussione, di contrarre una unione. Non è un matrimonio, non si chiamerà così intanto, e poi non è paragonabile al matrimonio in un elemento fondamentale del matrimonio tra due persone dello stesso sesso, cioè due persone dello stesso sesso non potranno, per esempio, adottare un bambino. Questa accelerazione è abbastanza chiaro dal punto di vista politico, è una risposta alle persone che sono scese in piazza sabato scorso a Roma nel Family Day. E allora rappresentano da una parte chi porta avanti questa legge e dall'altra parte chi è sceso in piazza a Roma, due posizioni chiaramente antitetiche, agli antipodi su questi temi, secondo me, cruciali, fondamentali. E oggi vogliamo mettere a confronto queste due opinioni nella figura dei nostri due ospiti, a cominciare dalla senatrice del Partito Democratico Monica Cirinnà, che è la prima firmataria di questo disegno di legge, tanto che si legge sui giornali, è il DDL Cirinnà. Buongiorno senatrice e benvenuta, ben ritrovata. Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori, grazie per questa ospitalità. Così come saluto anche il professor Massimo Gandolfini, che è vicepresidente dell'Associazione Scienza e Vita, neurochirurgo e tra gli organizzatori del Family Day a Roma. Buongiorno professore, ecco. Buongiorno a lei e grazie per l'invito. Allora, intanto, senatrice Cirinnà, lei ha detto, proprio vedendo quella piazza, sono convinta ancora di più che siamo sulla strada giusta e dobbiamo accelerare con questo disegno di legge. Perché vedendo quella piazza ha avuto questa reazione istintiva? Noi abbiamo deciso di dare risposte nel modo più urgente, così come la Corte Costituzionale ci chiede, alle coppie di persone dello stesso sesso che in questo paese non hanno alcun tipo di tutela, creando esclusivamente per loro, sì, correndo quanto avrei detto all'inizio, le mie civili. Però senatrice, la devo fermare. Io credo di non sentirla bene e credo che se non la sento bene io non la sentono bene neanche gli ascoltatori. Facciamo una cosa, proviamo a richiamarla, metta giù e proviamo a richiamarla, perché altrimenti se non si sente bene un confronto di questo genere è un confronto che non va bene, insomma, è proprio una qualità dell'audio, proviamo a richiamarla adesso sul cellulare. Intanto, professor Gandolfini, c'è stata anche una polemica su quante persone siano state in piazza. Secondo me questa è la polemica più sterile. Quanti eravate, secondo voi, al di là del fatto che comunque qualunque numero lei ci può dare, insomma, è un numero che non è neanche verificabile. È chiaro. è chiaro che un numero verificabile alla decina, all'unità, è impossibile. Diciamo che eravamo un mare di folla, ecco, questo senz'altro sì, e questo penso che sia un dato incontestabile. Un dato di folla, un mare di folla. Perché voi dite che la famiglia è in pericolo? Questo è un po' il senso della manifestazione. La famiglia in pericolo nel criterio per il quale abbiamo convocato questa manifestazione per una serie di ragioni. La prima, che è il primo punto della nostra convocazione, è di bloccare l'ideologia gender che vuole essere introdotta all'interno delle nostre scuole con percorsi educativi all'affettività e alla sessualità. Strettamente legato a questo tema c'è ovviamente la tutela della famiglia come viene costituzionalmente definita, cioè una società naturale fondata sul matrimonio. Questi sono stati i nostri due scopi e tuttora sono i nostri due scopi. Questo è il motivo per cui insomma, secondo voi la famiglia è in pericolo, ma le unioni civili, qualora venissero approvate, non mettono in discussione la famiglia tradizionale, cioè una società in cui, come succede in molti paesi europei del mondo, ci siano entrambe gli istituti, non è contemplabile da parte sua? Ma guardi, all'istituto delle unioni civili omosessuali fra persone di pari sesso possono essere riconosciuti tutti quei diritti che peraltro già ci sono nel codice civile, che sono legati ai diritti della persona. Questo nessuno li contesta e sono sacrosanti. Ma la famiglia, come viene costituzionalmente definita, deve godere di un trattamento di diritto del tutto particolare. Perché? Perché è una società naturale. Sì. È attraverso la famiglia che si garantisce la prosecuzione della generazione. Allora, trattare in maniera diversa delle condizioni che sono strutturalmente diverse non significa discriminare nessuno, significa trattare uno per un tipo di, per una qualità che ha, che è quello della famiglia, e l'altro per delle caratteristiche che non ha, non può avere, perché fino a prova contraria è solo da un maschio o da una femmina che nascono i bambini. E si può procreare così. Allora, senatrice Cirinna, abbiamo ripristinato il collegamento. La domanda è sempre quella: perché vedendo quella piazza è convinta di andare ancora più avanti su questa direzione? Allora, la mia non è una convinzione personale, ma è la convinzione del Partito Democratico che esprime il Premier ed è un impegno che noi abbiamo preso con i nostri elettori. L'Italia non può essere l'ultima in Europa a non dare diritti alle coppie di persone dello stesso sesso. È qui l'equivoco dietro il quale chiunque vuole discriminare, come coloro che erano nella piazza e come appunto il dottor Gandolfini vi ha appena spiegato in questo momento, chi vuole discriminare dice noi diamo tutti i diritti alle persone dello stesso sesso, ma parlano sempre solo di persone, quindi non viene riconosciuta la coppia formata da due uomini o da due donne come soggetto titolare di diritti e quindi di evidenza pubblica. C'è il cellulare che non va. A me dispiace perché insomma mettere in piedi un confronto e una delle due parti non si sente è obiettivamente, in radio capite che è un qualcosa che mette un pochino in difficoltà e anche in imbarazzo. Comunque il concetto basilare si è capito anche della senatrice Cirinna. Siamo l'unico paese in Europa dove non vengono garantiti anche alle unioni delle persone dello stesso sesso gli stessi diritti e doveri che hanno le persone del matrimonio. Professor Gandolfini, su questo devo dire che effettivamente un pizzico di ragione io la trovo, cioè perché, ripeto la domanda, bisognerebbe tutelare di più la famiglia naturale e non garantire diritti e doveri che sono quelli, non so, i diritti e doveri della reversibilità, i diritti e doveri il diritto alla pensione, ma anche i doveri appunto di prendersi cura della persona con cui si sta, anche di persone sullo stesso sesso, dello stesso sesso. Perché questo mina la famiglia? Io davvero non lo capisco. Allora, non è questione di minare la famiglia, è questione di non applicare un principio che dal punto di vista, diciamo, del senso stesso non ci sta. Discriminare, questa parola che viene tanto abusata oggi, discriminare vuol dire dare pari diritti a condizioni che sono diverse. La condizione di una coppia omosessuale, di una coppia fra persone dello stesso sesso, è una condizione che è strutturalmente diversa rispetto alla famiglia, società naturale. Allora, a questa coppia di pari sesso possono essere riconosciuti una serie di diritti civili che peraltro, voglio anche dire, e lo faccio in maniera molto rapida, praticamente ci sono già tutti, salvo il diritto di adozione e il diritto alla pensione di reversibilità. Sì. Ma quanto si sente dire che non potranno subentrare nel contratto d'affitto la questione successoria, la salute in ospedale, la visita in carcere, il trapianto d'organi? Va detto assolutamente chiaramente che queste sono tutte menzogne, perché tutti questi diritti sono già tutti scritti nel codice civile. Sì, però non, io non ho capito che cosa toglierebbero alla famiglia tradizionale, non toglierebbero nulla. Toglie una valenza enorme. La famiglia tradizionale, cosiddetta, è la famiglia come viene definita dalla Costituzione. Questo è un pilastro. Se ci aggiungiamo in parte tanti altri modelli che non hanno a che fare con questo, anche dal punto di vista del valore pedagogico che la giurisprudenza, la legge ha, viene tolto un valore fondamentale, il riconoscimento della famiglia come una società naturale. Non crede però che siamo in difetto dal punto di vista europeo e anche mondiale? Questo mainstreaming dell'Europa, che siamo il fanalino di coda, eccetera. Io invece di dire che siamo il fanalino di coda, dico che siamo l'unico baluardo ancora civile anche in questi temi. E quindi l'eccezione Italia è una bellissima eccezione. Poi non è detto, mi scusi, che tutto ciò che viene dall'Europa è buono. Proviamo a pensare in questo momento l'eccezione Italia sul grandissimo e gravissimo tema dei migranti. Sì. Siamo gli unici che li ospitiamo, tutti gli altri gli chiudono la porta in faccia. E non per questo facciamo delle trasmissioni dicendo che l'Italia è il fanalino di coda dell'Europa. Senta, professor Gandolfini, io le devo far sentire anche un audio che per due giorni è stato un po' passato sottotono, e ieri è esploso con questa polemica di una persona che era presente, che ha preso la parola al Family Day. Forse ha capito di chi si tratta, cioè di Chico Arghelo, che è il rappresentante, il padre del cammino neocatecumenale. Sa che ha fatto un discorso che vi ha anche coinvolto in una polemica non indifferente, no? Sì, adesso vogliamo far sentire, ovviamente è una parte di questo discorso, una parte che qualcuno mi ha già scritto dicendo il discorso va sentito in maniera più compiuta, è un discorso teologico, filosofico, molto più complesso rispetto alla parte che vi farò ascoltare, e cioè il discorso di Chico Arghelo era questo: chi è senza Dio e senza l'amore di Dio fatica a trovare un senso alla vita, per cui succede che se un uomo magari viene lasciato da una donna, viene a mancare insomma tutto il suo pilastro, non ha una speranza in Dio e quindi può arrivare ad avere addirittura degli istinti infernali come l'istinto di uccidere la donna. Sentite. Ma se la moglie lo abbandona e si va con un'altra donna, questo uomo può fare una scoperta inimmaginabile. Quella moglie l'ha tolto l'essere, il non essere amato. Questo si chiama l'inferno. Il primo moto che sente dentro, perché sente una morte tan profonda, che il primo moto è ucciderla. Questo ha detto, e non solo, ha aggiunto anche, dopo rischiare questo moto di uccidere la donna, ha aggiunto qualcosa di più. Non essere amato ha piombato in un buco nero eterno. Allora pensa, come posso far capire a mia moglie il danno che mi ha fatto? Ucciderò i bambini. Allora, professor Gandolfini, detto che il discorso appunto teologico molto, a me sembra una cosa allucinante, per lei? Ma guardi, quello che ha detto Chico Arghelo è stato cercare di andare al fondo ontologico e filosofico del grande tema dell'assenza dell'amore che le persone soffrono. Quando un uomo si sente non amato, è chiaro che è un uomo che, Chico Arghelo dice, che cade nell'inferno, cade nel non senso, non trova più un senso alla propria vita. E quindi può essere esposto agli errori, alle brutalità, alle violenze più assurde, più terribili, come può essere appunto quello di uccidere un'altra persona. Sì. Quindi far passare questo discorso come una sorta di legittimazione. No, ma non legittima nulla. Siamo lontani anni luce. Legittimare no, tema. Però arrivare a pensare che se uno è senza Dio e sprofonda nello sconforto, uccide la moglie o uccide dei figli, non lo so, secondo me non è che chi è senza Dio uccide la moglie o uccide i figli. Certamente una persona può trovare nel proprio sistema di valori degli elementi che lo possono aiutare e consolare, È chiaro che Chico Arguello sta facendo il discorso che deve fare e che è un discorso di tipo catechetico cristiano. E allora è chiaro che tutto il riferimento dell'essere, l'ontologia stessa, è riferita a Dio. Questo non vuol dire che una persona laica non possa trovare un sistema di valori morali dentro di sé e ci per fermarsi da, appunto, da azioni malvagie. Che... Ma parlando Chico Arguello dirà così. Se parlasse, non lo so, un profeta laico, mi viene in mente, non so, Norberto Bobbio, avrebbe trovato delle motivazioni diverse. Ma a dire che è l'ontologia profonda che viene ferita di fronte al non amore. Dante stesso dice che amor che annulla amato amar perdura. Sì. Abbiamo bisogno dell'amore. Però, professor Gandolfini, io la penso un po' come Filippo Facci, che ieri su Libero ha scritto che né coloro che erano al Family Day e né li mette, diciamo, in contrapposizione, né coloro che erano al Gay Pride rappresentano poi in profondità la maggioranza della società. Cioè è come paragonare in uno stadio le due tifoserie, non è che il mondo si divide tra due tifoserie, la maggior parte delle persone non va allo stadio. Come dire che in realtà sembra quasi che stiate combattendo gli uni e gli altri delle battaglie perse, perché le unioni civili ci saranno e le famiglie tradizionali ci saranno, ci sono e ci saranno. È questa la questione. Che posizione ha? Perché non la vede un po' come una crociata, forse in maniera di due crociati contrapposti che si fronteggiano, ma in realtà gli italiani la pensano in maniera un po' più mediana, se vuole. Guardi, io quello che le posso dire è che il nostro comitato ha messo in piedi la manifestazione del giorno 20 in 18 giorni, il che vuol dire che abbiamo semplicemente raccolto un sentimento diffuso della gente e la gente era già più che pronta per poter manifestare il proprio sentire comune. Aveva soltanto bisogno di qualcuno che le desse lo start. Con questo start sono arrivate 1 milione più o meno, quello che vuole lei, di persone. Tenga presente che se erano ad esempio 1 milione, vuol dire che ciascuna di quelle persone ha dei riferimenti parentali, amicali, sociali, sì, che vengono moltiplicati, non so, per 10, per 20 e per 30. Io continuo a pensare che il comune sentire della gente normale italiana non è certamente quella del Gay Pride, è il comune sentire di chi chiede di essere tutelata, la famiglia e i figli, che sono il fondamento del welfare. Anche se i sondaggi, anche se i sondaggi, anche detto che la grave crisi economica che l'Italia ha passato e sta passando sta in piedi grazie al fatto che esistono papà, genitori, nonni, sì, che mantengono tutto. Non certo le unioni civili omosessuali stanno salvando oggi. Però, professor Gandolfini, anche se sondaggi dicono, almeno scrivono i giornali, poi questi sondaggi bisognerebbe capire, però la maggior parte degli italiani sarebbero favorevoli alle unioni civili o alle unioni di persone dello stesso sesso. Lei sa bene che i sondaggi si possono manipolare come si vuole. Beh, adesso, se io da Milanizia voglio far dobbiamo tutti, partire dal presupposto che si voglia manipolare un sondaggio. Sì, però, no, possono essere anche fatti in maniera corretta. Ma comunque lei sa benissimo che il sondaggio lascia un pochettino il tempo che trova. Un sondaggio lo vedremo nell'iter prossimo di questo DDL, sì, ed eventualmente anche ciò che potrà accadere dopo l'eventuale approvazione del DDL. Va bene, io su questo allora intanto la ringrazio, ci sono tanti ascoltatori, mi dispiace che non ci sia stato questo confronto proprio per una questione tecnica, insomma il telefono della senatrice Cirinnà si sentiva malissimo e poi richiamata, insomma a volte era spento, a volte cadeva la linea. Io quello che posso promettere è quando e se ci saranno collegamenti un po' più seri da entrambe le parti, ovviamente possiamo rifare questo dibattito, tanto il disegno di legge va avanti e l'iter va avanti. Facciamo così, 3 minuti di pubblicità, ci sono tanti ascoltatori, Antonio da Novara, Gino da Roma, Luigi da Padova, 800 24 00 24 è il numero per intervenire in diretta, tra poco sono da voi. Eccoci qui alle 8:41 minuti, 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta ci sono tante telefonate, comincerei da Antonio da Novara, ci chiama, buongiorno Antonio. Buongiorno Milan, come va? Bene, lei? Sì, non c'è male, iniziamo bene. Una bella settimana di lavoro. No, come iniziamo? Siamo a mercoledì. Ho fatto le ferie. Ah, debosciato che non è altro, va bene, sì, dica sì. Antonio, va bene, dai. Ascolti, partiamo dal presupposto che... È vero, ha ragione lei, siamo tutti a favore delle unioni civili. Beh, cioè, tutti, non lo so. Tutti, secondo me tutti. No, secondo beh, me adesso tutti. Gandolfini, per esempio, e tutte le persone che l'hanno in piazza. Gandolfini no. Può dire quello che vuole, sta rompendo le scatole, giustamente come stava dicendo lei prima, per sta facendo delle lotte contro un mulino a vento che non hanno, che non hanno senso, perché facciamo le lotte come mi faceva incazzare, come dice lei alla mattina, la Cirinnati, la senatrice Cirinnati, che si mette a fare dei decreti su, che si mette a fare dei decreti sulle unioni civili. Ma facciamo dei decreti su quello che arriva dall'Europa, siamo l'ultimo dell'Europa sui pagamenti a 30 giorni, invece qua paghiamo. Ho capito, ma scusi, lei è contraddittorio, però dice è a favore delle unioni civili, bisogna fare una legge, sennò. Ho capito, ma non è la cosa che bisogna fare oggi. Mettiamolo insieme ad altri decreti, gli altri non li facciamo però. Ma guardi, Antonio, cioè, lei dice non è la cosa più importante da fare, più urgente, però questo leitmotiv io non l'ho mai capito, Antonio, perché no, è vero, sì, ci sono, lei dice, i pagamenti, la pubblica amministrazione, il lavoro, la ripresa economica, la scuola, gestire l'immigrazione se vuole, saranno importanti, magari anche più importanti e urgenti, ma non è che un governo fa una cosa alla volta, un Parlamento può votare un provvedimento alla volta, finché non risolve il problema dei pagamenti, la pubblica amministrazione non può occuparsi di unioni civili, cioè ci si può fare, si possono fare più cose contemporaneamente, non è che però lei era un po' contraddittoria a dire a favore delle unioni civili, però però la Cirinnà sbaglia a portarle avanti perché non è la priorità. Comunque vabbè, buone vacanze, cioè ben rientro dalle vacanze, Antonio. Vorrei andare a Roma da Gino. Sì, pronto, buongiorno, grazie, dottor Milan. Sì, eccoci, Gino. Dunque, le questioni sono due. La prima, io credo che sia importante, ed è il diciamo il comportamento dell'Italia in seno all'Europa. Non è detto che l'Europa abbia ragione e l'Italia abbia torto, semplicemente perché non ha fatto delle leggi. Sì, è un po' come dice Gandolfini, non è che dobbiamo seguire il mainstream europeo. Esatto, ma a parte quello, c'è diciamo una sindrome vera e propria, sindrome da egemonia di gruppo, che diciamo condiziona il comportamento dei partecipanti al gruppo, quindi non è detto che si debba andare per forza nella direzione. Ma no, ma non è obbligatorio, ma non credo che Renzi o il PD o chi vuole fare questa legge voglia farlo perché in Europa è così, o solo perché in Europa. Penso che siano convinti, Gino. Facciamo delle leggi che riteniamo opportune. Il secondo è la famiglia. La famiglia è la struttura che ci ha permesso di arrivare dove siamo arrivati oggi. Quindi a mio avviso va comunque protetta, deve essere protetta. Secondo lei prevedere le unioni civili depotenzia la famiglia tradizionale, come ha detto Gandolfini? In qualche modo sì, anche perché non si è mai chiesto il parere ai bambini, cioè, nessun sondaggio è stato fatto sui bambini, no? Nessuna nazione ha fatto sondaggi sui bambini per vedere se i bambini sono d'accordo. Ma sono d'accordo a che cosa? Ad essere adottati da una coppia gay. Ma guardi che questo, ecco, vede, questo provvedimento non prevede l'adozione. Sì, no, questo l'ho capito. Questo è fondamentale. In Italia, anche se ci saranno le unioni civili, non ci sarà l'adozione, ci sarà solo la possibilità di adottare la cosiddetta stepchild adoption, cioè se uno dei due ha già un figlio naturale avuto da una precedente relazione eterosessuale, l'altro potrà adottarlo nel caso, no? Questo diciamo è il modo per eludere la legge, no? Cioè, non è stata fatta ancora la legge, già è stata in qualche modo elusa. Basta avere un rapporto extraconiugale, no? tra coppie gay, sì, per poter prendere dei figli, per poter avere dei figli. Beh, questo potrebbe essere, è un'accusa che viene fatta. Gino, io la ringrazio. Intanto voglio però salutare, cambiamo un attimo tema e parliamo di politica, poi dopo avremo anche gli altri ascoltatori. Il senatore Giarrusso del Movimento 5 Stelle. Senatore, buongiorno. Buongiorno. La ringrazio per essere con noi, perché l'abbiamo chiamata pochi minuti fa, perché abbiamo visto insomma la vicenda del senatore Azzollini del Nuovo Centrodestra, che è esaminata dalla giunta per l'autorizzazione a procedere, giunta di cui lei fa parte, e che dovrà decidere, o meglio esprimersi, sulla richiesta di arresto della procura di Trani sul senatore Azzollini. Ieri vi siete visti alle 20, credo? Sì, c'è stata una richiesta del senatore Azzollini di essere nuovamente risentito. Perché? Ma niente, ha aggiunto poche cose di scarso rilievo alla sua difesa. Sì, cioè sta prendendo tempo, secondo lei? Non è che sta prendendo tempo, cerca di imbastire la difesa, ma gli elementi sono veramente scarsissimi. Sì. Lo dico all'avvocato, le faccio un esempio: noi abbiamo fatto ieri, posto una domanda ulteriore al senatore Azzollini, la quale non ha risposto, e cioè dopo che lui ha dichiarato in giunta la scorsa volta di essersi interessato alla, a questa azienda gestita sanitaria, no? Lo ricordiamo, con 600 e passa dipendenti, 4 ospedali, gestita sì. Da questo gruppo di suore, da questa congregazione. Bene, noi gli abbiamo chiesto come ha potuto interessarsi e gestirla, cioè come ha sottratto alle suore la gestione della, di questa impresa, perché noi sappiamo che se lei o io ci presentiamo in una congregazione, in qualunque congregazione, diciamo grazie, ora gestiamo noi con le persone di nostra fiducia, la prima cosa che fanno, ci prendono per le orecchie e ci portano alla posta, non a calci, perché ovviamente sono religiosi, però ci manca. Quindi c'è un elemento di fondo, io adesso, scusi, ma lei come ha fatto a imporre i suoi uomini di fiducia? È lui che ha detto, io non ho imposto niente a nessuno, andavo là in pace, tranquillamente, mi prendevo il caffè e mi sentivo meglio, così ha detto, ora che stai in Mi sembra di capire che il Movimento 5 Stelle si esprimerà come parere per l'arresto, no? Il sì. Ma non ci sono difese credibili del no, però mi faccia capire, perché pare che ci sia invece una unione, forse PD, NCD, sa, si devono anche un po' reggere comunque politicamente. Come dicevano a proposito dei nomi romani. Vabbè. Mi faccia capire come andrà la vicenda secondo lei. Ma io, viste le premesse di come sono andate le vicende in questo Parlamento fino adesso, non posso che pensare che andrà male. Cioè andrà male per lei vuol dire no alla richiesta d'arresto? Andrà male rispetto alle esigenze della giustizia. La giustizia deve essere uguale per tutti. Noi abbiamo persone che sono state tratte agli arresti, alla magistratura. Sì. C'è stato un vaglio di un giudice, un GIP. C'è una richiesta nei confronti di Azzolini, che è persona di grande caratura e di peso. Sì. È il capo di questo gruppo, secondo la magistratura. Sì, sì. Quindi sottrarlo alla uguaglianza... sarebbe sbagliato, però la legge è un atto grave. La giunta, come abbiamo detto molte volte, deve decidere se c'è un fumus persecutionis, cioè nelle carte. Come abbiamo già detto altre volte, sì? Azzolini tutto sembra tranne che un perseguitato sul suo territorio. Cioè, è uno che ha disposto di 150 milioni per il porto di Molfetta e sono spariti. Sì. Che ha gestito tramite i suoi uomini di fiducia un buco che si parla di 500 milioni. Ora mi dica lei se le sembra una persona... No, non lo so, io non ho letto... Una persona che ha avuto una mano libera abbondante, e che sono solo due delle questioni, ma sappiamo bene che sul suo territorio è un RAS, un capo indiscusso. No? Io non ho letto le carte, lei le ha lette, dice fumus persecutionis non ce n'è, non ce n'è. La Costituzione che noi dobbiamo valutare è quella invece che si pone quando una persona viene ostacolata per altri scopi dall'azione della magistratura. Va bene, vedremo. Ma per concludere, concludere i tempi. Secondo lei si arriverà prima la giunta e poi il Senato? Ricordiamo che si doveva esprimere l'aula prima delle vacanze a un voto sulla richiesta d'arresto, oppure no? Noi ci impegniamo perché sia così. E credo che con il presidente Stefano ci sia abbastanza un'intesa su questo, perché è giusto nei confronti di tutti, anche nei confronti del senatore Azzolini, che la questione venga affrontata al più presto. Al più presto. Perché ovviamente non può essere appreso. Va bene, quindi diciamo entro il mese di luglio staremo a vedere. Intanto, senatore Giarrusso, Movimento 5 Stelle, la ringrazio per essere stato con noi. Grazie, ovviamente, buona giornata. È il momento del traffico. Allora, Chiara da Roma, che ci vuole dire? Buongiorno Chiara. Niente, non ci vuole dire niente perché il cellulare oggi va così. Luigi da Padova, buongiorno. Buongiorno Milan, complimenti, bravo. Eccoci, grazie. Una riflessione sulla famiglia, sul dibattito di prima, con molto rispetto. Io personalmente penso che le unioni civili vadano regolate, confermando peraltro quello che magari il codice civile già dice. Però una riflessione la farei sul fatto che esiste anche un distinguo tra la coppia naturale, la famiglia naturale e le famiglie di cui si sta parlando, le nuove famiglie. Sì. E c'è il concetto di naturalità o natura. E quindi paradossalmente questo concetto, cioè questa differenza c'è, non è che due persone dello stesso sesso non possono per natura fare un figlio, questo certo, ma la pressione, ammesso che questo disegno di legge non contempli l'adozione, salvo quel caso che infatti, lei ha detto prima, è così. Però c'è una pressione comunque culturale, sociale su questo tema, e comunque io paradossalmente dico che più protetto il pomodoro biologico che la famiglia biologica. Più protetto il pomodoro biologico che la famiglia biologica. È una provocazione. Sì, no, è una provocazione. Però, no, si fermi su questa provocazione, perché sennò non riesco a mandare la segreteria telefonica. Ma ho capito il senso della sua provocazione. Luigi da Padova, la ringrazio. La nostra segreteria telefonica con cui concludiamo. Ma Mila, ma come faccio a calmarmi? Che tutte le mattine ti sento e altro che le mani sul volante. Tu devi avere solo notizie belle, notizie buone, tutti i pensionati sono contenti, arriveranno soldi dallo Stato. Mila, qualche giorno mi puoi fare un incidente. Sto scherzando, sei un grande. Saluti. Di Alessandro, buongiorno. Hai visto? 7.000 appartamenti a 7,65 euro. Questo ti fa capire com'è che vanno poi le elezioni nel paese, che vincono i soliti noti. Alla media di 4 a famiglia, 7x4, 28, 28/30.000 voti, e partono già con questo vantaggio qui. Dimmi te come si fa andare avanti. Usina che Roma la dovrebbe nominare il Papa. A Roma è proprio un disastro, mannaggia, mani sul volante, mani sul volante! Voglio la Padania libera dall'Europa. Solo per il gusto di chiamarli extracomunitari. Marino, è finito. Non è finito Marino, è finita l'Italia. Oh, che pessimismo, che pessimismo. 02-4652-4492, rispondiamo con la segreteria telefonica di 24 Mattino, con Elisabetta Fusconi, Alessandro Longoni e Lorenzo Nespoli e il nostro Peter Bescapè. Vi diamo appuntamento a domani.